Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 16 febbraio, il sole in regione sorto alle 7.10 e tramonterà alle 17.34. Domenica ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Mercoledì e giovedì prossimi in fiera a Pordenone nell'ambito di Aquafarm, mostra convegno dedicata all'acquacoltura, è programmata la seconda edizione di Novel Farm, un evento dedicato alle nuove tecniche di coltivazione fuori suolo. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi alla rubrica del bio, che spezza ancora una volta una lancia in favore dell'erba per contenere il dissennato uso dei mangimi. Per la storia del vino siamo al Medioevo e ai vinelli prodotti nei castelli, e a seguire una scheda sull'umile ma coreografica Erika. Per la rubrica dell'universo suino siamo al momento cruciale del giorno della macellazione, ovvero il far su salami, per passare poi ai segreti delle patate fritte e in teccia. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per il proverbio friulano della luna chiudono la puntata. Prima di iniziare però un ricordo di Hermes Battilana, storico collaboratore di questa trasmissione, scomparso i giorni scorsi, funzionario regionale dell'agricoltura, esponente di primo piano di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, fu anche presidente dell'ERSA. Per Vita nei campi curò per anni la rubrica dei mercati agricoli e quella del quesito, rispondendo con professionalità alle richieste degli ascoltatori. Alla famiglia le condoglianze di tutta la redazione della TGR del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì e giovedì prossimi la fiera di Pordenone ospiterà la seconda edizione di Novel Farm, ovvero il futuro dell'agricoltura inteso come sperimentazione, ma non solo, ma anche come realtà. Ne parliamo con Renato Pugliati, che è il presidente di Pordenone Fiere. Cosa potremmo vedere e di cosa si parlerà in questi due giorni? Questa fiera, che è la terza edizione di fatto, perché è stata avvicinata a Aquafarm, cioè all'agricoltura del mare, e questa è un'agricoltura del futuro. Seconda edizione quindi, che porta le innovazioni del settore, partendo da quello che è la coltivazione di oggi, una coltivazione idroponica, una coltivazione verticale, per arrivare al quello che è l'innovazione del futuro e che è rappresentato dal Totem Hank. Hank è un totem, quindi una sovrapposizione di agricoltura che, passando da quanto in passato trovavamo, cioè la parte idroponica, la parte aeroponica che è un successivo step, l'acquaponica che è la combinazione di entrambe, si arriva oggi al vertical farming. C'era un dubbio su quello che poteva essere l'utilizzo effettivo, e invece vediamo che anche i privati hanno un'attenzione particolare verso questa coltivazione, e il primo modo di usarlo è stato il vertical farming, quindi avere delle pareti attrezzate con delle tasche e dei sistemi di ritenzione idrica e delle cose che si possono coltivare, sia per fini ornamentali, quindi interi palazzi con delle serre verticali sulle pareti, ma anche nei piccoli balconi dove con delle tasche uno poteva coltivare la propria verdura in autonomia. Due parole sull'aeroponica. È sostanzialmente una coltivazione senza o con un bassissimo utilizzo dell'acqua. È stata inventata dalla NASA negli anni 90 e questo era il modo di, nello spazio, avere qualcosa di fresco per gli astronauti. Era quindi un poco utilizzo dell'acqua, visto anche i cambiamenti climatici che portano un inasprimento di quello che è la parte idrica del nostro pianeta, perché l'innalzamento della temperatura, l'alto utilizzo del suolo da parte delle persone che vi abitano, portano a una salinità superiore al normale delle acque utilizzabili, e quindi questo sistema di produzione per noi è importantissimo per il futuro dei nostri campi, dei nostri agricoltori. Comunque il filo che unisce tutte queste è che si tratta di agricoltura fuori suolo. Sì, oggi si pensa invece a un'agricoltura di massa, un'agricoltura massiva, si può realizzare nei capannoni industriali dismessi, e la cosa più bella è quello che vedremo nel nostro Nouvel Farm a Pordenone, in fiera a Pordenone 19-20, è questo Totem Hank, che significa il tradurre quello che era l'agricoltura del passato, quindi in orizzontale, su più livelli. Quindi una stessa quantità d'acqua e di fertilizzanti o altro che può andare su più livelli e quindi può essere utilizzata dall'agricoltore per creare e avere una resa maggiore per metro quadro, e con una atmosfera controllata, al di fuori degli eventi atmosferici che possono indebolire le colture, e con il basso uso di qualsiasi altro pesticida o altro, perché in ambiente controllato abbiamo un attacco minore da parte degli insetti che possano rovinare le coltivazioni. Erba ai maiali è uno slogan che presto potremo cominciare a sentire anche qua da noi, e c'è un perché, ce lo dice Cristina Micheloni per la rubrica del bio. Prima un paio di numeri, sono numeri della Federazione Internazionale dell'Industria Mangimistica, che ci dice che nel 2016 tutto il settore mangimi a livello globale ha consumato 1 miliardo di tonnellate di mangime, di cui 159 milioni in Europa. Sono cifre importanti che includono chiaramente suini, pollame, anche i bovini da latte, ma anche i pesci. Queste, soprattutto suini e pollame, sono i due settori che stanno crescendo di più e sono previste per i prossimi anni degli incrementi del 38% e del 104% rispettivamente. Se tutti questi animali continuano a mangiare, come stanno facendo adesso, soia come principale fonte proteica, è evidente che non ce la possiamo fare. O accettiamo di distruggere il pianeta per dare a mangiare a questi animali, che poi nutriranno noi, oppure non riusciamo a uscirne. Tant'è che, insomma, c'è stato recentemente anche un gruppo di esperti a livello comunitario che ha messo insieme i cervelli per ragionare su quali altre fonti proteiche si possono immaginare, e ha identificato più o meno 4 soluzioni. Una premessa importante: è ovvio che tutto questo funziona se per prima cosa noi rivediamo il sistema alimentare nostro, quindi magari un po' meno prodotti animali, e magari mandiamo anche qualche vacca di nuovo al pascolo per utilizzare la cosa più facile da fare, ovvero l'erba. Le 4 alternative comunque sono: 1. Sottoprodotti e avanzi dell'industria del pane e dei prodotti da forno, meraviglia. Perché? Perché l'industria è un'altra dell'industria agroalimentare che sta crescendo molto velocemente e è molto poco efficiente, ovvero produce un sacco di scarti. Allora, a me verrebbe da dire che forse è meglio prima gestire gli scarti, prima di pensare di dargli da mangiare agli animali, però vabbè. Seconda fonte di proteina: erba, erbai, foraggere, però chiaramente parliamo di monogastrici, non possono mangiarle così come sono, ma devono essere fermentate o concentrate o estratte in qualche maniera. Il tutto ha un costo energetico e ambientale da non sottovalutare. Terza opzione, gli insetti. Anche questi la sostenibilità è ancora abbastanza dubbia. Quarto punto, microalghe e batteri unicellulari. Questi sono molto efficienti e depurano anche le acque, quindi potrebbero fare più lavori in un momento solo, però potrebbero anche essere utilizzati per l'alimentazione umana e basta. Quindi tornerei al punto primo, forse è meglio prima rivedere il sistema alimentare nostro e poi quello agro, passando per le soluzioni forse un po' più banali, ovvero portando fuori gli animali e facendo loro mangiare erba, almeno a quelli che possono farlo. Per la rubrica del vino, di cui stiamo ancora facendo la storia con il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine, lasciato Carlo Magno, ci avventuriamo nel Medioevo. Cosa successe? L'Alto Medioevo comincia dopo la morte di Carlo Magno, e si caratterizza inizialmente come un passaggio, diciamo, dall'economia agricola di stampo romano ad un'economia più curtense chiamata. Cioè abbiamo delle aziende agricole dove un signorotto organizza tutte le produzioni, tra cui chiaramente anche la produzione dell'uva, la produzione del vino e, come abbiamo visto, applicando le regole di Carlo Magno, tutte le altre produzioni agrarie. Qual è il problema? Che dopo, diciamo, l'impero carolingio, l'Europa ritorna ad essere motivo di scorribande da parte di popolazioni nomadi, popolazioni guerriere, un po' da tutti i lati. Quindi ben presto questa economia curtense non si può più reggere, bisogna portarsi all'interno di cinta murarie, e quindi inizia quella che potremmo definire la parte dei castelli. E il vino? Il vino ugualmente viene prodotto, ma viene portato all'interno dei castelli, però che si capisce perfettamente come viene prodotto con dei sistemi molto molto arcaici, perché si fa quasi tutto di corsa, in attesa, diciamo, di reggere l'assalto di qualche popolo predone, e quindi le qualità del vino sicuramente non possono essere considerate effettivamente elevate. Diciamo che probabilmente a quei periodi si produceva, tornando alla suddivisione romana, più una posca che un vino. Cioè un prodotto acidulo con una certa presenza di alcol. Nello stesso periodo cosa succede praticamente? Che le popolazioni che non vogliono sottoporsi al signorotto locale, che quindi possono possedere armi, vengono in qualche modo convinte ad assoggettarsi a qualche signore e quindi abbandonare le armi, quindi prendere la protezione. Allo stesso modo il papato, che aveva raggiunto il massimo splendore sotto Carlo Magno, disfà praticamente il suo potere e nel secolo buio del papato, il X secolo, praticamente anche il Papa e tutti quelli che sono gli annessi e connessi della Chiesa entrano in un regime feudale, per cui c'è proprio una sorta, diciamo, di predominio della discendenza di famiglia piuttosto che di discendenza, se vogliamo, legata ad una vocazione o legata effettivamente ad una necessità di tipo religioso. Con i colori pastello dei suoi fiori punteggia in queste settimane i prati in un anticipo di stagione, è l'erica di cui ci parla oggi Antonino Danelutto. Chi in questo periodo si inoltra nelle nostre pinete montane libere da neve resterà affascinato dalle vaste fioriture di erica che tappezzano sottobosco, annunciando l'approssimarsi della primavera. L'erica, nome scientifico Erica carnea, in friulano fra i tanti grion, grionesse, grignon, è un piccolo arbusto perenne sempreverde con fusto strisciante dal quale si elevano numerosi rami fioriferi alti qualche decina di centimetri. Le foglie sono raggruppate a quattro attorno al ramo, sono aghiformi, completamente revolute, cioè col margine ripiegato verso il basso, tanto da coprire la pagina inferiore, ostacolando in tal modo la dispersione della poca acqua a disposizione. I fiori sono penduli in racemi terminali unilaterali di colore roseo carnicino. Abbelliscono il cuscino di erica da febbraio a primavera inoltrata. Il frutto è una capsula con numerosi semi minuti che vengono dispersi al minimo urto e poi diffusi dal vento. Questo arbusto è frequente dall'alta pianura fino ai monti, raro nella media e bassa pianura. Cresce nei prati e pascoli aridi, su pendii rocciosi e soleggiati, nelle pinete, sempre su suolo calcareo. Nella medicina tradizionale vengono utilizzati i fiori e le sommità fiorite raccolti da febbraio ad aprile, contenenti diversi principi attivi, fra i quali flavonoidi, terpeni, tannini e tracce di arbutina. Grazie ad essi l'erica è considerata un buon diuretico, sudorifero e astringente. Inoltre è ritenuta un blando antisettico nelle cistiti. Per l'alto contenuto in tannini è antinfiammatoria della mucosa e della bocca e delle gengive. Nei prati di montagna si effettuava regolarmente l'estirpazione dell'erica per lasciar posto all'erba già scarsa da destinare al bestiame. I bachi coltori, al termine dell'ultimo stadio larvale dei bachi da seta, allestivano il cosiddetto bosco, utilizzando anche rami di erica sui quali venivano filati i bozzoli. L'erica è una buona pianta mellifera, menzionata già da Plinio che lodava le virtù del miele ericeo. Era credenza che l'erica avesse il potere di scacciare le negatività e che tra i suoi rami trovassero alloggio le fate. Per la rubrica dell'universo suino che ci cura Adriano Del Fabbro siamo ancora alla giornata della macellazione, al momento topico, quello del salame. Dunque si insaccavano poi i salami e le mitiche soppresse dal diametro molto più grosso. Per questi prodotti più pregiati si utilizzavano le carni migliori, quelle dell'osso collo, della spalla, della pancetta, dell'lombo e della coscia, che venivano mondate, tagliate a strisce per poterle macinare adeguatamente nel tritacarne manuale o, più avanti, abbinato a un motorino elettrico un po' più moderno, e poi condirle con sale, aglio, aromi, spezie e vino bianco. Il lardo si preparava con le parti grasse ottenute dalla zona dorsale del suino, il più solido e pregiato, dopo l'eliminazione del grasso molle, che è concentrato soprattutto sulla pancia. Il lardo veniva salato, poi pepato, quindi arrotolato con la cotica all'esterno, legato, sigillato con lo strutto per evitare fenomeni di rancidimento, infine messo a stagionare, in orizzontale o verticale se confezionato a colonna come da alcune tradizioni, tutto nel camarin, cioè nella cantina. Legare i salami e le soppresse era un affare esclusivo del purcitar. La consistenza degli insaccati doveva essere ben dosata e lo spago di buona qualità. Si trattava di un'operazione che richiedeva molta esperienza, troppo importante per farla eseguire da un aiutante. A costoro eventualmente poteva essere affidato il compito di punzecchiare il budello esterno in superficie con una sorta di punteruolo multiplo, il forop, e in modo omogeneo per permettere la respirazione dell'insaccato durante la maturazione. Nella fase di conservazione era molto importante che gli insaccati, una volta appesi, si liberassero correttamente dall'acqua e dal grasso in eccesso e formassero la muffa superficiale, sola garanzia di una buona stagionatura. Prima di appenderli, però, per un paio di giorni dovevano essere riposti nella cantina, stesi, affinché cedessero una parte dell'acqua in eccesso. Guai saltare questa operazione se si volevano ottenere dei salami durevoli. Per ultima, utilizzando le frattaglie, si confezionava la polmonaria. Erano allora le 9:10 di sera e dopo 10-12 ore di lavoro il norcino puliva l'attrezzatura, salutava e rientrava a casa propria. Alcune volte il norcino passava in famiglia il giorno successivo per preparare gli ossocolli, le pancette e le coste, le cui carni nel frattempo erano state mantenute stese e si erano già in parte asciugate naturalmente. Le ossa, con un po' della loro carne ancora attaccata, venivano fatte bollire nei giorni seguenti. Erano una delizia se non erano state troppo spolpate. Il grasso veniva conservato nella vescica dell'animale stesso. Riguardo al maiale, la morale era ed è sempre la stessa. Non si butta via niente. Tutto viene utilizzato. Persino gli occhi vengono usati nelle moderne applicazioni farmaceutiche. Il sangue, un tempo veniva diversamente condito per fare la mule e poi mangiato, e le parti cornee finiscono nei concimi organici. Con le setole si fanno i pennelli. Cos'è di più semplice e nazional popolare di un bel piatto di patate fritte o in teccia? Ma non è così semplice farle buone e secondo ricetta, come ci spiega oggi Roberto Zottar. Meglio patate fritte o in teccia? La scorsa volta ho evocato i comfort food e ciò mi ha fatto ricordare le patate, perché molte volte davanti a un piatto con sugo si sente il bisogno o di un pezzo di pane per fare di nascosto una sopa o di patate che possono assorbirlo per farcelo godere in pieno. Le patate quindi sono per me un comfort food complementare e in particolar modo le patate in teccia o quelle fritte. Le patate fritte perfette sono quelle croccante fuori e morbide dentro, e il segreto per realizzarle sta nella doppia frittura, storicamente rivendicata dai belgi che l'adottarono già a fine Settecento. Per avere patate fritte a regola d'arte, dopo averle pelate e affettate in bastoncini regolari, bisogna lasciarle in ammollo in acqua fredda perché perdano l'amido. Una volta asciugate, si tuffano poca per volta per pochi minuti in olio strutto caldi a 160 gradi e quindi si scolano. Quando bisogna servirle, si porta l'olio a 180 gradi e si fa una seconda frittura per alcuni minuti. Scolate, si passano in carta assorbente, si salano e si servono subito. Provare per credere, saranno perfette. L'ideale per il sugo però sono le patate in teccia, emblema della cucina regionale. Per la loro preparazione le nostre nonne utilizzavano una pesante padella in ferro, la teccia appunto o fersorie, che non si lavava mai con sapone ma solo si sciacquava e, dopo essere asciugata con carta, si oliava. Questa padella, annerita dall'utilizzo, costituiva il segreto per ottenere quelle crosticine dorate caratterizzanti il piatto. Se non alla perfezione, però, anche le padelle antiaderenti di oggi permettono crosticine altrettanto golose e forse più sane. C'è una versione vegetariana, ma io preferisco quella con pancetta. Lo strutto sarebbe ideale, ma vi concedo l'uso di olio extravergine di oliva. Lessate un chilo di patate in acqua non salata, sbucciatele e tagliatele a pezzettoni irregolari. Soffriggete nell'olio caldo una cipolla tritata finemente e quando sarà trasparente aggiungete un etto di lardo o pancetta a dadini. Quando questa è rosolata aggiungete le patate. Salate, pepate, proseguite la cottura su fiamma vivace schiacciando e rimestando con una spatola di legno, magari aggiungendo qualche cucchiaio di brodo bollente. Proseguite la cottura lasciando formare una crosticina dorata che, raschiando, andrà incorporata alle patate che diventeranno soffici ma crostolose. Continuate a raschiare il fondo fino a che le crosticine formate si saranno uniformemente distribuite e conferiranno l'aspetto caratteristico e gustoso al piatto. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,30 e 16,50 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 34,80 e 35,10, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 16,20 e 16,70 e il frumento tra 19,10 e 19,40. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 50 centesimi il quintale e la soia aumentata di 1,50 euro. Mercato fermo nel comparto dei bovini a macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,40 e 2,90 euro al chilo IVA esclusa e quelli di seconda tra 1,80 e 2,40. Contrattazioni sofferenti invece nel settore dei vitelli da ristallo, con i blubelga maschi quotati tra 5,80 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,20 e 4,60, i frisoni tra 1,40 e 1,70 e i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze diversificate invece nel comparto suinicolo, con il valore del lattonzo di 30 kg franco partenza in crescita fissato a 3,66 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello in lieve calo tra 1,43. Infine tendenze sofferenti nel mercato degli avicunicoli, con i polli a terra pagati tra 0,92 e 0,94 euro il chilo, i tacchini maschi tra 1,40 e 1,42, le faraone tra 2,25 e 2,29, le anatre tra 2,45 e 2,49, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 1,74 e 1,84, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 14,10 centesimi il pezzo. Microfono ora al previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo per dare un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Diamo un'occhiata a questi primi 15 giorni di febbraio, che inizia con correnti occidentali miti in quota e zero termico oscillante tra 2500 e 3000 metri di quota, mentre nei bassi strati vi stagna aria umida con nebbie, nubi basse e temperature medie decisamente elevate. In quota il tempo è migliore, fa piuttosto caldo. Un mutamento di circolazione sia il giorno 4, quando un fronte freddo da nord-ovest cambia radicalmente la massa d'aria anche negli strati bassi e fa affluire per diversi giorni forti correnti da nord. Da segnalare raffiche di vento a 140 km/h sulla vetta del Reste e sulla Pala d'Altei. In Carnia e localmente in altre zone si registrano anche dei danni per il vento. Sul finire della prima decade una tempesta atlantica investe il nord Europa e richiama correnti occidentali più umide sulla regione, che inaugurano una nuova fase di variabilità, umidità, nebbie, temperature nuovamente miti e qualche debole precipitazione. Solo in questi ultimi giorni sia cielo poco nuvoloso e la temperatura massima in pianura sale a ben 15 gradi, mentre sulla zona montana si formano addirittura cumuli, come in primavera, un fronte atlantico l'altra notte. Infine determina deboli piogge e spruzzate di neve oltre 1000 metri circa. In sintesi, questa prima metà di febbraio è stata di 2 gradi sopra la media come temperature. Da notare che il mare, con 2 gradi e mezzo sopra la media, sta battendo ogni record di temperatura per febbraio. Venendo alle previsioni, le correnti occidentali persisteranno anche nei prossimi giorni. Un debole fronte passerà tra domani sera e martedì. Avremo quindi a cavallo dei due giorni nubi, qualche debole pioggia e poco vento, con temperature miti. Mercoledì un modesto fronte freddo scavalcherà le Alpi e formerà una depressione, che richiamerà buona moderata sulla regione, ma le temperature caleranno solo di poco. Giovedì e venerdì il tempo sarà buono, un po' ventilato, ancora fresco di notte ma mite di giorno, con massime anche a 13-14 gradi. Verso il fine settimana sembra che le correnti si orientino nuovamente da ovest, prospettando variabilità, temperature miti e un aumento dell'umidità. Per conferme e aggiornamenti vi suggeriamo di seguire gli aggiornamenti dell'Osmer ARPA sulla RAI, su internet e sulla telefonia mobile e sui vari social media. Alla prossima! Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano dedicato alla luna, alle credenze, ai suoi influssi in agricoltura e non solo. Lune sabidine di cent, une buine, ovvero luna di sabato su cento di buona ve ne una. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.